Elementare, Watson. La scienza risponde alle vostre domande. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Ma quell'effetto lì dovrebbe funzionare se tu non sai come stanno le cose, infatti, no? Infatti, la cosa che mi incuriosisce molto è come funziona. Cioè, se uno lo sa e poi non lo sa, allora lo sa ma non lo sa, è veramente un po' complicato. La risposta. Sì, però vabbè, magari agli ascoltatori diciamo di cosa stiamo parlando. Oh, no, lo lasciamo dire alla nostra ascoltatrice Alice. Conosco l'effetto placebo. In effetti sembra che per una percentuale alta di casi possa funzionare. Se manda giù una pillola di zucchero che quindi non contiene niente, i sintomi in effetti passano. Ma questa cosa potrebbe funzionare anche facendo una falsa operazione chirurgica? Alice è molto informata, perché dà una certa spiegazione su che cos'è l'effetto placebo, quindi è molto preparata, e addirittura uno step successivo. Però, esiste l'effetto placebo in chirurgia? Sì, nel senso che però sarebbe una specie di agguatino. Sì, tu, cioè ti operano, ma non ti fanno niente. Bene. In realtà credo che sia possibile. Andiamo a sentire chi studia queste cose, che è una ricercatrice del laboratorio di fisiologia dell'Università di Torino, Elisa Frisaldi, benvenuta. Sì, grazie, eccomi qui e un saluto a tutti gli ascoltatori. Per quanto riguarda l'effetto placebo in generale, posso dire che studiare questo effetto oggi significa focalizzare l'attenzione su tutti quei fattori psicologici, quindi aspettative, fiducia, speranza, che producono dei cambiamenti fisiologici nel nostro corpo che sono in grado di influenzare sia il decorso di una malattia che la risposta a un trattamento. Infatti ciò che è determinante per provocare questo effetto non è di per sé la zoletta di zucchero o il bicchiere d'acqua fresca, come diceva l'ascoltatrice, sì, ma il significato simbolico che queste sostanze assumono all'interno del rituale terapeutico in cui vengono somministrate, e dove per rituale dell'atto terapeutico io intendo tutto ciò che può comunicare al paziente che una terapia è in atto. Quindi le parole del medico, quello che dicono gli infermieri, la visita dei camici bianchi, l'ambiente ospedaliero, l'odore dei farmaci e dei disinfettanti. Tutto questo tutto può influenzare un la risposta. Viene un po' ingannata tutta la psicologia, il contesto del paziente. E certo che finché bisogna prendere una pillola, vabbè, insomma, si può capire, ma addirittura chirurgicamente ingannare una persona è più complicato. È possibile? Sì, è possibile. Infatti la chirurgia, con tutti i suoi rituali e il forte impatto emotivo sul paziente, è soggetta a effetto placebo. Anzi, uno dei primi esempi documentati di effetto placebo è stato descritto proprio nell'ambito chirurgico e risale addirittura agli anni 50. Infatti a quei tempi si ricorreva molto spesso a un trattamento chirurgico per la chirurgia dell'angina pectoris, che è questa sensazione di dolore al petto e al braccio sinistro, che è dovuta a un'insufficiente ossigenazione del muscolo cardiaco. Del cuore. Allora, sì, del cuore. Allora cosa si faceva? Si faceva una piccola incisione del petto, si legavano le arterie mammarie perché si pensava che in questo modo il sangue, invece di affluire lì, arrivasse al cuore e quindi si sopperisse un po' alla carenza di ossigeno. Però facendo i vari interventi i patologi si sono resi conto a un certo punto che di fatto, pur legando le arterie, il sangue che arrivava al cuore era lo stesso, e quindi si sono chiesti: ma allora questo intervento chirurgico è efficace o no? Di fatto nel 1959 un cardiologo americano, Leonard Cobb, pubblicò sul New England Journal of Medicine proprio uno studio in cui dimostrava che il trattamento chirurgico così rodato era di fatto inefficace. Aveva 17 pazienti, tutti sottoposti a intervento chirurgico, 9 dei quali di fatto fecero una vera e propria chirurgia placebo, cioè furono anestetizzati, incisi con il bisturi a livello del torace, ma non vennero legate le due arterie mammarie. E i risultati furono sorprendenti, perché in quei 9 pazienti ci fu la scomparsa del dolore tipico dell'angina e anche una riduzione delle alterazioni cardiache che si riscontravano diciamo all'elettrocardiogramma. Quindi la sola convinzione di aver fatto quel tipo di intervento dava la risposta, dava il risultato. Esatto, anche quando c'è di mezzo una corporalità forte. Volevo chiederle questo: io tempo fa avevo letto di alcune cose veramente ultra sorprendenti in guerra, per esempio medici che raccontavano della situazione in Vietnam, dei soldati completamente privi di un braccio, che però non accusavano nemmeno emorragia perché erano, come dire, contenti che era finita e tornavano a casa. Ah, quindi psicologicamente un lavoro fortissimo. In quei casi c'è la componente dello stress sulla percezione del dolore. Lo stress ha questo rilascio, diciamo, di sostanze analgesiche endogene, per cui il soldato non avverte nulla finché non è fuori pericolo. Esatto. Probabilmente una volta ritornato nel posto in cui sa di essere al sicuro, arrivano tutte le percezioni dolorifiche prima soppresse. No, invece una curiosità brevissima, perché siamo in chiusura, io volevo capire invece come si inganna il paziente, cioè tu gli dici ti opero, però in realtà lui deve aver accettato prima il fatto di forse essere operato o forse no, perché non si può proprio ingannarlo dal punto di vista, come dire, legale. Esattamente come nei trial clinici farmacologici, i pazienti in questi casi, che comunque sono molto pochi in ambito chirurgico, nel senso che la stessa diciamo che l'iter in doppio cieco che viene fatto per i farmaci viene fatto pochissimo per la chirurgia. Quando viene fatto, il paziente legge un consenso informato in cui gli si dice che ha la percentuale, si definisce, può variare dal 50 anche a meno, di probabilità di ricevere una terapia chirurgica placebo e quindi inefficace, diciamo, rispetto a quella classica. In questi casi che cosa succede? Che il paziente più delle volte si affida completamente al chirurgo e di fatto delega a lui la totale responsabilità della resa, pur sapendo che in parte c'è la possibilità che verrà sottoposto a un intervento che non è quello vero. Bene, grazie Frisaldi, buona ricerca allora. Prego, arrivederci. Buon lavoro. Scriveteci a elementare@radio24.it, perché cerchiamo di rispondere a tutte, ma proprio tutte le domande. Per esempio, se nominassimo una Orango al Ministero delle Pari Opportunità, Calderoni verrebbe accettato a quel punto dalle famiglie di orangutan del Borneo? Non è mica elementare, Watson.